Sono una formiga, sono una formiga, sono una formiga, seguo de fa, ma guarda te che sfiga, sono una formiga, e tu mi puoi scusare. Sono una formiga e per viaggiare in che son nata senza un'ortiga, se son spongiuta come tu mezz'ora e con piede fia, e per me un sas è come il galbiga, perché sono una formiga, e se ti fai una pisada è come se verde in una diga, e perché sono una formiga e te mi puoi negare. Sono una formiga, seguo di fare, ma guarda te che sfiga, sono una formiga, e tu mi puoi scusare, per me un sasso, e la come il galbiga, perché sono una formiga, e se ti fai una pisada è come se verde in una diga, perché sono una formiga e te mi puoi negare.